Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Prescrizione: le ministre di Italia Viva desertano il Consiglio dei Ministri di questa sera. Orlando, in caso di crisi si va al voto. Coronavirus, il contagio cresce ancora. Ieri oltre 10.000 nuovi casi, rimosso il capo del partito comunista cinese di Wuhan. E in Italia tutti dimessi, turisti ricoverati allo Spallanzani dopo la quarantena. L'ambasciata però protesta, basta aggressioni ai cittadini cinesi. Zaki, si mobilita anche la conferenza dei rettori, chiede al governo di seguire la vicenda del ragazzo egiziano studente a Bologna arrestato al Cairo. In questa puntata anche a Bologna scoppia la psicosi per un bimbo in arrivo dalla Cina in una scuola elementare. Avrà fatto la quarantena? I genitori annunciano causa all'istituto. E poi a Milano la città avverte i proprietari di immobili abbandonati e degradati. Avete 18 mesi per abbatterli, dice il comune. Infine, gli italiani e internet 4 su 5 lo usano per giocare. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata fino alle 13.15, i titoli principali, poi i nostri approfondimenti. Cominciamo con la giornata politica perché continua a restare molto alta la tensione all'interno del governo e della maggioranza sul tema della giustizia e della prescrizione. Le due ministre di Italia Viva hanno infatti fatto sapere che non parteciperanno al Consiglio dei Ministri previsto oggi per prendere le distanze dal cosiddetto lodo Conte B, cioè la soluzione data dalla maggioranza al tema del processo penale. Italia Viva non ha intenzione di retrocedere sulla prescrizione. Le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti non prenderanno parte al Consiglio dei Ministri di questa sera. Assenza per ribadire la distanza sul lodo Conte Bis, ovvero stop alla prescrizione se condannati in primo grado, che dovrebbe essere discusso proprio questa sera a Palazzo Chigi. Da parte dei Dem interviene l'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, che avverte: non ci sono maggioranze alternative. Se cade il governo si va al voto. Ma Orlando è anche aperto alla trattativa, così su Sky. Si tratta di un testo molto articolato e complesso, lo vedremo anche alla fine dei passaggi parlamentari, ma noi abbiamo nel passaggio parlamentare il terreno nel quale esercitarci insieme. In questo rivolgo un appello anche ai colleghi di Italia Viva. Diversa e più dura la posizione dei 5 Stelle. Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede risponde con un vabbè, un'alzata di spalle al fatto che le ministre di Italia Viva possano disertare il CDM. Ieri è stato bocciato in commissione il lodo Annibali, l'emendamento di Italia Viva al decreto mille proroghe per rinviare di un anno la riforma Bonafede sulla prescrizione. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In tutto questo l'Italia deve fare fronte anche alla stagnazione dell'economia certificata dalle previsioni economiche d'inverno della Commissione europea. Ebbene, il nostro paese, con una crescita dello 0,3% quest'anno, si conferma il fanalino di coda in Europa. I rischi al ribasso sulla prospettiva di crescita restano pronunciati. Le indagini sulle imprese italiane suggeriscono un avvio molto lento nel 2020. La fiducia nell'industria è migliorata, ma non abbastanza da sostenere un rimbalzo imminente. L'attività dei servizi, quella sì, dovrebbe sostenere la crescita del PIL reale italiano nel breve termine, scrive Bruxelles. La stabilizzazione provvisoria della produzione manufatturiera è un fattore di sostegno alla domanda interna. Nelle stime economiche d'inverno si legge inoltre che i consumi privati, spinti anche dal nuovo reddito minimo, dovrebbero sostenere la crescita, mentre ci si attende che i risparmi precauzionali restino comunque alti. L'Italia, dunque, con una crescita dello 0,3% per il 2020 e dello 0,6% per il 2021, si conferma fanalino di coda dell'Unione Europea. Penultime, la Germania e la Francia, ferme all'1,1% per il 2020. In testa, invece, ai dati sulla crescita, Malta e la Romania, 4,3%. 0,8% nel 2020. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Le notizie sul coronavirus. Ora continua a salire il numero dei contagi e delle vittime in Cina. Soltanto ieri ci sono stati oltre 200 morti e più di 10.000 nuovi casi. In Italia invece sono stati dimessi stamani dallo Spallanzani di Roma i 20 turisti cinesi che facevano parte della stessa comitiva della coppia, risultata invece positiva al coronavirus. Facciamo il punto in diretta con Rosanna Magnano. Sì, la brusca impennata di casi di coronavirus nella provincia di Hubei, che ha registrato 242 morti e 14.840 nuovi casi dal 12 febbraio, si spiega con l'aggiornamento delle regole di conteggio, che ora includono anche i clinicamente diagnosticati. Il numero complessivo dei decessi sale così a 1.350, solo uno fuori dalla Cina nelle Filippine. I casi in Europa restano limitati a 43, solo 3 in Italia. E c'è finalmente il via libera dalle autorità cinesi al volo speciale organizzato dalla Farnesina che rimpatrierà da Wuhan Niccolò, lo studente 17enne di grado rimasto bloccato nella città focolaio dell'epidemia, perché, ricordiamo, quando hanno rimpatriato gli altri 56 italiani, lui aveva la febbre, pur non essendo positivo al virus. Il giovane rientrerà in Italia sabato. Sono invece in partenza dall'Italia verso la Cina i 20 turisti dimessi oggi dall'Istituto Spallanzani di Roma, dove sono stati sottoposti a quarantena, ma sempre risultati negativi ai test, nonostante facessero parte della comitiva dei due anziani pazienti contagiati e tuttora ricoverati nell'ospedale romano in terapia intensiva, insieme al ricercatore reggiano proveniente dal sito della Cecchignola, che è in buone condizioni, e dal dottor Zhang dell'ambasciata cinese, che accompagnava i suoi concittadini verso il rimpatrio. Come dicevi, è arrivato un appello a fermare le discriminazioni e le violenze contro i cinesi presenti in Italia. È tutto. Grazie a Rosanna Magnano. E intanto questa sera si attendono le misure che il governo dovrebbe varare per dare il sostegno alle imprese proprio per far fronte alle conseguenze economiche del coronavirus. La Cina è un mercato fondamentale per l'Italia. Per quanto riguarda il settore moda, possiamo resistere ancora un mese, spiega Marino Vago, presidente di Sistema Moda Italia, nell'intervista di Lilia Zancaner. Se questi ritardi non superano un periodo troppo importante, ci sono una sorta di ammortizzatore che ci permette di garantire le produzioni. Certo che porta sicuramente a delle preoccupazioni. Io credo che ancora per un mese buono si possa resistere. Poi, fortunatamente, tranne per cose molto specifiche, si possono trovare delle fonti alternative, con tutto quello che questo comporta. Quello che abbiamo notato è che chiaramente in questo periodo le vendite nei negozi sono crollati. Ci auguriamo che sia un fattore temporaneo. Il governo sta pensando in questi giorni a delle misure a favore delle aziende. Secondo lei, quali potrebbero essere questi interventi? Quello che potrebbe essere il supporto alla promozione dei nostri prodotti sui mercati che non sono toccati da questa situazione è sicuramente un aiuto, è una cosa che andrebbe fatta in ogni caso. Non dimentichiamo che il settore della moda paga da solo metà del disavanzo commerciale, cioè metà dell'attivo che facciamo viene fatto grazie al settore della moda. Cambiamo pagina. Accelerare la procedura di affidamento delle nuove concessioni autostradali prima della scadenza delle vecchie convenzioni che sono ancora in essere. L'invito rivolto al governo è arrivato oggi dalla Corte dei Conti all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Un forte richiamo a rimuovere gli ostacoli agli investimenti pubblici, allerta per effetto sui conti pubblici del coronavirus e attenzione ai margini stretti per il calo del debito. Questi messaggi lanciati oggi a Roma nell'aula delle sezioni unite della Corte dei Conti alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 della Corte dei Conti. Il Presidente Angelo Buscema li ha sottolineati così nella relazione sull'attività dell'Istituto nel 2019. Per la riduzione del rapporto debito-PIL si fanno molto stretti e ciò a sua volta rafforza l'esigenza di politica di bilancio caratterizzata da un alto grado di selettività, imposta anche dalle urgenze ben presenti nella realtà italiana che provengono dall'invecchiamento della popolazione e dalla situazione di grave ritardo del sistema infrastrutturale pubblico. Non mancano i richiami ai ritardi e all'inefficienza ad accelerare le procedure per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali e a migliorare le competenze per trattare in questo campo con i privati, anche inserendo giovani nella PA, ormai un'urgenza in tutti i settori, anche per la trasformazione digitale in ritardo nel contesto europeo. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. La conferenza dei rettori italiani registra con preoccupazione le notizie relative all'arresto dello studente universitario egiziano Patrick George Zaki, regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Bologna. A pieno titolo, parte della comunità universitaria italiana ed europea, e la conferenza dei rettori sollecita e segue le concrete iniziative del Ministero degli Esteri già in atto a tutela dei valori di civiltà che costituiscono il proprium della vita universitaria. Con questa nota si mobilita appunto anche la conferenza dei rettori italiani sulla vicenda di Patrick Zaki. Dopo Gran Bretagna, Germania e Italia, anche la Francia dice sì alla tecnologia cinese. Huawei non sarà infatti esclusa dal 5G in Francia. Questo è l'annuncio che è stato dato questa mattina dal ministro dell'economia francese Bruno Le Maire. Siamo allo sport con il calcio. Stasera semifinale di Coppa Italia, Milan-Juve. Titani feriti, Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, che forse per la prima volta nelle loro carriere assaporano l'amaro retrogusto dell'impotenza. Sì, perché neppure le loro prodezze sembrano bastare a tirar fuori dalle secche Milan e Juventus. E allora lo scontro diretto in Coppa Italia sa quasi di duello all'OK Corral, perché anche attraverso la coppetta nazionale passa il senso di tutta l'annata. Campioni diversi e distanti, Ibra e CR7, con più spesso lo svedese a punzecchiare il lusitano, che ha scelto l'indifferenza come strategia difensiva. Finora si sono sfidati in campo 10 volte, mescolando le maglie di Juventus, Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain. Epica però la sfida che li vide protagonisti a Stoccolma con le maglie di Svezia e Portogallo nel 2013, quando in ballo c'era il mondiale brasiliano. Ibra fece doppietta, CR7 rispose con una tripletta. Chiunque vinca, speriamo abbiano voglia di concedere il bis stasera a San Siro. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 12 minuti, facciamo una pausa. Effetto Giorno torna tra poco con le altre notizie. Riprenderemo dalla psicosi, è proprio il caso di dirlo, per il coronavirus in una scuola bolognese, dove all'annuncio dell'arrivo di un bambino cinese dalla Cina alcuni genitori minacciano di fare causa alla scuola, ma chiedono anche giustamente che venga svolta la quarantena di 2 settimane. Questo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi, e poi naturalmente c'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno per commentare le notizie di oggi. A tra poco. Signore, le dispiace scendere dall'auto? Sì, sempre, moltissimo. Scenda, per favore. No. È circondato, scenda dall'auto. No! Sali a bordo di Jaguar E-Pace e non vorrai più scendere. Con Easy Jaguar oggi è tua a 19.300 euro. E dopo 2 anni decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. TAN 0%, TAG 0,95. Salva approvazione della banca fino al 29/2/2020. Info su jaguar.it. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Effetto Giorno. Prescrizione, resta alta la tensione nel governo. Le ministre di Italia Viva disertano il Consiglio dei Ministri di questa sera a Orlando. In caso di crisi si va al voto. Coronavirus, il contagio cresce ancora. Ieri oltre 10.000 nuovi casi. Rimosso il capo del Partito Comunista Cinese di Wuhan. In Italia invece tutti dimessi, turisti ricoverati allo Spallanzani dopo la quarantena. Però cresce l'ansia anche nelle scuole. A Bologna i genitori minacciano causa alla scuola elementare che sta per accogliere un bimbo proveniente dalla Cina. Zaki si mobilita, anche la conferenza dei rettori chiede al governo di seguire la vicenda del ragazzo egiziano, studente a Bologna e fermato al Cairo. Treviglio, quando la puzza di popcorn finisce in tribunale, il sindaco minimizza le lamentele degli abitanti e così parte l'esposto di 140 cittadini contro i cattivi odori nel quartiere. Alle 13:15, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, e quelli che avete appena sentito sono i titoli della giornata di oggi. Compreso per quanto riguarda il coronavirus, c'è stato da parte dell'ambasciatore cinese, proprio nel giorno in cui sono stati dimessi tutti i 20 turisti cinesi che facevano parte dello stesso gruppo, della coppia che era stata positiva al coronavirus, loro invece sono risultati tutti negativi, hanno fatto la quarantena, sono stati tutti dimessi. Ecco, l'ambasciatore ha invitato però l'Italia a, come dire, a contribuire a tenere a freno le aggressioni nei confronti dei cittadini cinesi che evidentemente vengono registrate da parte dell'ambasciata. C'è un caso che riguarda Bologna, perché accade ancora le lamentele dei genitori dei bambini per la presenza, possibile presenza in questo caso, siamo alla scuola Carducci di Bologna, di un bambino arrivato dalla Cina, quindi potenzialmente collegato all'emergenza del coronavirus. Allora vogliamo tornare a fare il punto su cosa prevedono le direttive in questo momento dei ministeri dell'istruzione e della salute in Italia per quanto riguarda questo tema dei bambini che potenzialmente possono essere entrati in contatto col coronavirus per essere stati in Cina recentemente. Con noi Stefano Versari, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, partiamo proprio da questo. Che cosa prevedono le direttive, le indicazioni che avete avuto per quanto riguarda appunto il monitoraggio dei bambini che possono essere entrati in contatto con il coronavirus? La cosa è molto semplice. I dirigenti scolastici che sappiano di bambini, di studenti che siano stati nell'area della Cina interessata dall'epidemia, che ne siano a conoscenza, ne danno comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica. Questo se siano a conoscenza di questi casi avvenuti nei 14 giorni precedenti. Tutto qui, perché dopo questo diciamo avviso al Dipartimento di Salute, immagino territoriale, quindi sarà un ASL locale o non so che cosa, che cosa accade di questi bambini? E questi bambini sono invitati, non sono obbligati. Questo sulla disposizione della sanità, quindi del Ministero della Salute, sono invitate le famiglie, se ritengono, a trattenerli a casa, ma non esiste l'obbligo. E se il nostro Ministero della Salute dà queste disposizioni, evidentemente è perché non sussistono in questo momento suggerimenti, indicazioni che invitano a fare diversamente. Quindi, fino adesso le situazioni in questi casi, i bambini sono stati tenuti a casa volontariamente dalle loro famiglie. Ecco, però mettiamoci anche nei panni di quei genitori che magari sono a conoscenza del fatto che nella classe dei loro figli potrebbe entrare un bambino di ritorno dalla Cina o per un periodo di turismo o perché magari è appena arrivato e sta per essere inserito, come potrebbe forse essere il caso di Bologna, ma non siamo abbastanza informati perché non abbiamo chiesto un'intervista alla preside che non ha però voluto rilasciare dichiarazioni. Appunto, nel caso di un bambino che deve essere inserito nella classe arrivando dalla Cina, le preoccupazioni dei genitori, Versari, perché cioè è giusto che si faccia solo su base volontaria questa quarantena e che non sia invece obbligata, come è accaduto per esempio a tutte le altre persone che sono rientrate dalla Cina, vedi gli italiani che si sono fatti 2 settimane di quarantena alla Cecchignola. Sono due cose totalmente diverse. Prima di tutto, il giusto e non giusto viene definito scientificamente, non sulla base delle chiacchiere da bar. E se dal Ministero della Salute ci dice che non ci sono problemi, noi dobbiamo tenerci queste valutazioni. È il tempo dei fatti e non delle paure. Però scusi se puntualizzo, dica, perché lei fa riferimento alle chiacchiere da bar, non so a cosa si riferisce, però io mi riferisco a quello che ha detto Rezza, che è un infettivologo e un virologo, che quando questa questione venne tirata fuori dai governatori leghisti e quindi anche diciamo con un coté politico che non ci sfugge, però della questione dei bambini cinesi nelle scuole italiane, dissero è giusto che qualunque bambino, non solo cinese naturalmente, rientra dalla Cina in questo periodo, che venga tenuto in quarantena. Poi le indicazioni ministeriali sono quelle correttamente che ricordava lei, questo sì, però diciamo è un'opinione anche di alcuni infettivologi importanti. Ho capito, ma se abbiamo detto che la valutazione deve essere fatta dalle autorità competenti, non è che io e lei o anche un altro infettivologo cominciamo a dire quello che si deve fare. Se c'è un soggetto istituzionale che ha la responsabilità di valutare qual è il livello di pericolo e di dare le indicazioni, a quello ci si attiene. Se poi uno vuole stare nel panico, si chiude in casa e non parla più con nessuno. Sì, non credo che sia questo l'atteggiamento dei genitori, non credo che vogliano stare nel panico, preoccupati. I genitori hanno posto una questione. Sono preoccupati, sì. Tutti siamo preoccupati. Io oggi ho incontrato un cinese, ho incontrato un imprenditore cinese, in questo momento io potrei essere anch'io infettato. Se ragioniamo in questa maniera, non ne veniamo più fuori, l'unica maniera è chiudersi in casa. ripeto, per il direttore dell'OMS, poi passa, eh. Il direttore dell'OMS ha affermato, sì, è il tempo dei fatti e non delle paure, è il tempo della scienza e non delle dicerie. Il tempo della scienza prevede che chi ha competenza, in questo caso medica, in un istituto che vabbè, è stato è chiaro il suo punto di vista. Io le ho chiesto semplicemente se lei riteneva, diciamo, corretto questo atteggiamento, diciamo, che questa decisione di farla corretto. Su base volontaria, la quarantena non su base e non su base obbligatoria. Le chiedo però prima di sì, volontaria e non su base obbligatoria, perché dovremmo mettere in quarantena e quindi rendere obbligatorio chiunque venga da qualsiasi paese estero, perché chiunque venga da qualsiasi paese estero dove non si applicano queste regole può essere venuto a contatto. Va bene, questo è il suo legittimo punto di vista e si appoggia tra l'altro su quelle che sono le indicazioni ministeriali, lo ha appena detto. Io però ricordo anche che all'interno, per esempio, delle comunità cinesi c'è stato chi ha proposto di fare una auto quarantena proprio per mettersi al riparo dalla possibilità di contagiare altre persone, essendo appena tornati dalla Cina, magari da quelle zone che sono vicine all'epicentro, per amor del cielo, mica non parliamo in generale generalizzando. Però l'ultima cosa che le chiedo, Versari, è se al di là del caso delle Carducci di Bologna, se avete ricevuto altre segnalazioni, cioè se c'è una casistica di questa problematica, oppure se quello delle Carducci è un caso veramente isolato, almeno a Bologna e in Emilia Romagna. Questi casi ce ne sono già stati in questo mese, più di uno, e sono stati gestiti con il buon senso, con la serenità, con il dialogo. Ripeto, alla Carducci il problema non è solo quello, ma è stato, come dire, sollevato il problema della costituzione delle classi, che è tutta un'altra questione. Quindi probabilmente si sono sommate un problema ad un altro problema. Chiaro. In tutte le altre situazioni non ci sono stati riverberi di rilevanza pubblica. Grazie Versari, grazie mille per essere stato con noi, buona giornata. E va bene, insomma, è una vicenda dove si toccano naturalmente delle sensibilità, quelle dei genitori preoccupati per l'ingresso di un bambino appena arrivato dalla Cina nella classe dei loro figli. Però su una cosa mi sento di dare ragione a Versari: bisogna attenersi a quelle che sono le indicazioni istituzionali importanti. In questo momento l'Italia ha per esempio un blocco dei voli, ha effettuato quarantene su turisti italiani di tutti i gradi, quindi diciamo, se in questo momento le indicazioni sono queste, bisogna secondo me, questa è la mia opinione, dire si può stare sereni, ecco, per usare un'espressione che può anche far sorridere. Dopodiché credo però che non si debba ridurre le preoccupazioni dei genitori della Carducci di Bologna a, come dire, chiacchiere da bar o a isteria o a psicosi. Sono persone che fanno delle domande e vogliono delle risposte. Cambiamo decisamente argomento, torniamo sul rapporto di cui abbiamo pure parlato anche ieri tra gli italiani e le nuove tecnologie, perché c'è una nuova analisi che parla di questo e evidenzia un dato significativo: 4 italiani su 5 usano internet, sì, ma per giocare. Gli italiani trascorrono online un quarto della loro giornata, 6 ore in media. 50 milioni gli utenti che accedono alla rete ogni giorno, di cui 45 da mobile. 35 milioni le persone attive sui social, dove trascorrono circa 2 ore al giorno, in aumento rispetto a un anno fa. E sono 8 gli account che possiede in media ogni persona. Questi i numeri di Digital 2020 firmato We Are Social, il report annuale che analizza lo scenario social e digital a livello locale e globale, e che quest'anno ha rilevato un dato su tutti: la metà della popolazione mondiale, 3,8 miliardi di persone, utilizza regolarmente i social media. Nel nostro paese YouTube si conferma la piattaforma più attiva, seguita dalla famiglia di app di Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger. Ma il vero fenomeno e il trend globale si chiama TikTok, l'app dei giovanissimi. In forte espansione il mondo del gaming, 4 italiani su 5 giocano. Stefano Maggi, We Are Social Italia. Parliamo di game di tipologie diverse, da game che possono essere un semplice passatempo sullo smartphone, a game che hanno proprio l'obiettivo di connettere a livello sociale delle persone. Basti pensare che alcuni tra gli eventi più importanti a livello mediatico hanno avuto nell'ultimo anno anche un riverbero su piattaforme come Fortnite, per esempio. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. :13:26, ci spostiamo per una piccola pagina di cronaca, una piccola notizia se volete anche leggera, che viene da Treviglio in provincia di Bergamo. È con noi Carmelo Ilardo, rappresentante del comitato cittadino Treviglio Respira. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Mi perdonerà se ho definito una notizia, diciamo, leggera, quella di cui ci andiamo a occupare e in cui lei è uno dei protagonisti, però il tema è questo: i cattivi odori che rischiano in questo caso di finire addirittura in tribunale, perché in particolare in un quartiere di Treviglio, nella zona di via Brignano, diversi cittadini lamentano un cattivo odore molto molto forte che qualcuno ha associato ad alla produzione anche di popcorn, che hanno un odore molto caratteristico. Come? Brutti. Sono brutti i popcorn in generale, sì, o questo? Poi manca il film. Ecco, manca il film. Adesso ci spiegherà tutto. E tanto sta che siete finiti in tribunale, perché il sindaco, che avete provato a interpellare, non ha neanche tentato una mediazione, perché ha detto che il problema non esiste. Ma che succede in questa via Brignano di Treviglio? Ma allora, intanto, che sia in via Brignano l'origine del problema, tengo a precisarlo, non è il nostro comitato che lo dice, sì, ma lo ha detto il sindaco in incontri pubblici e in dichiarazioni ai quotidiani. Quindi voi siete partiti da un odore in una zona della città, cattivo odore, e poi vi è stato detto che... più quartieri, e si sono lamentati anche in altri quartieri, sì, si allargava sempre più, e quindi la cosa è stata molto più sentita dalla gente. Ecco, ma perché il sindaco ha detto che è localizzato in via Brignano? Che c'è in via Brignano di particolare? Ma via Brignano, da sue dichiarazioni, sì, e tengo a precisare, scusi di essere preciso perché volano voci di querele a chi parla male di quell'azienda, per cui siccome non è nostra intenzione del comitato incolpare nessuno, non è che incolpate qualcuno, avete un problema con un cattivo odore. Qual è il cattivo odore? Il cattivo odore, guardi, è chi lo definisce, come diceva giustamente lei, di popcorn, però qualcuno lo definisce popcorn un po' rancido. Chi lo definisce di mangime per animali avariati, chi lo definisce di broccoli in padella dimenticati. Un classico, questo è un classico, quando il vicino di casa fa i broccoli o anche la moglie a casa fa i broccoli e dimentica. Già l'odore sale, figuriamoci quelli dimenticati, però scusi. Sì, perché che la cosa che accomuna tutti questi odori è un piacevole inizio di tostatura. Ecco, ma al di là della cosa che può anche far sorridere, però un puzzo come questo che ha infastidito quasi 150 cittadini, ci deve essere qualcosa. Avete capito che diavolo è che ha avuto anche la nausea, le dico la verità, del comitato abbiamo sentito della gente, io a un certo livello, specialmente d'estate, col caldo della pianura padana in cui l'aria qui si dice si taglia a fette quando ce la fa, sì, quello puzza, fa parte di questa afa, e nella notte con le finestre aperte molta gente sinceramente. Ma è di sera in particolare che emerge? Come, scusi? E c'è un orario nel quale questa puzza, diciamo, si diffonde? Allora, normalmente un orario preciso non c'è, cioè dipende un po' dalle lamentele che ricevono. In questo periodo, siccome sono sotto pressione in questi mesi, si sono spostate durante la sera tra le 21 e la notte. Però la una. Scusi, Ilardo, lei mi sta da un soggetto all'origine di questa puzza, che però non ci ha ancora spiegato qual è l'indiziato numero uno di via Brignano. C'è un'azienda, un'impresa, qualcuno che produce qualcosa? Il sindaco ha dichiarato che è un'impresa che fa oli minerali o oli industriali, che cuoce dei cereali, sì, sembra che cuoce dei cereali, del grano turco, e ne ricava degli oli, Evidentemente mancano dei filtri alle cappe di questa, sì, di questa azienda. Non lo so, perché io non sono mai andato a vedere neanche l'azienda, non cioè, se sono i preposti. Vabbè, di sicuro adesso ci penserà il tribunale, perché avendo fatto un esposto ci sarà qualche magistrato che dovrà occuparsene. Noi ce ne siamo occupati per quanto riguarda la cronaca. Io la ringrazio, Carmelo Ilardo, rappresentante del comitato Treviglio Respira. È una piccola storia, chissà però quanti di noi si sono ritrovati nel proprio quartiere con problemi di questo tipo. E a volte passa in pochi giorni, a volte rimane, persiste, e naturalmente non è giusto che ci siano delle persone che debbano convivere con questa terribile puzza. Staremo a vedere. 13:31, facciamo un break, torniamo tra pochissimo. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Effetto giorno. Ben ritrovati con le notizie di oggi. Prescrizione: le ministre di Italia Viva disertano il Consiglio dei Ministri di oggi. Orlando, in caso di crisi si va al voto. Coronavirus, il contagio cresce ancora. Ieri oltre 10.000 nuovi casi, dimostro il capo del Partito Comunista Cinese di Wuhan. In Italia invece tutti dimessi, turisti ricoverati allo Spallanzani dopo la quarantena. L'ambasciata però protesta, basta aggressioni ai cittadini cinesi. Air Italy in liquidazione, arriva l'offensiva commerciale di EasyJet e Ryanair con tariffe speciali per i clienti rimasti a terra. Milano contro gli immobili abbandonati e degradati, l'ultimatum del comune: abbatterli o recuperarli entro 18 mesi. Ne parliamo tra poco, effetto giorno, con l'assessore all'urbanistica di Milano. Minuti, eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori. Allora, i vostri messaggi al 349-238-6666. Intanto sul caso di Treviglio, la puzza di popcorn è incredibile. C'è un ascoltatore che scrive: in effetti io vado la sera a correre in via Brignano e sento questo cattivo odore. Quindi arriva una conferma anche da uno di questi, un cittadino che non ha fatto l'esposto al comune. Poi su Facebook ci scrivete un altro, Nando da Cagliari dice: basta chiamare l'azienda sanitaria per verificare se ci sono inquinamenti nell'aria, giusto? Un bel suggerimento per il comitato Treviglio Respira. Invece sulla questione del coronavirus, dei bimbi cinesi nelle scuole italiane, dopo il caso che vi abbiamo raccontato a Bologna, ci sono moltissimi messaggi. Devo dire, se avesse anche un valore statistico, quasi completamente divisi a metà tra chi dice, per esempio come questo ascoltatore Luigi su Facebook: se poi il bimbo è positivo e contagia una classe intera e ci scappa il morto, esiste un responsabile? Ora, che ci scappi il morto sembra molto poco probabile, per niente probabile. In Italia abbiamo avuto 3 casi in totale di contagio e naturalmente men che meno si è parlato proprio di vittime. Però l'allarmismo, la paura, il panico e, come dire, anche la richiesta, secondo me legittima, di avere delle risposte a queste domande. Oppure invece chi, come tanti di voi, minimizzano. Per esempio questo ascoltatore dice: volevo sapere se, come dite voi, li controllano già in aeroporto, perché dopo dobbiamo metterli in quarantena, a meno che i controlli in aeroporto non servano a niente, come presumo. E anche questa è una domanda legittima: i controlli servono, ma giustamente dice, allora perché dobbiamo fare due volte? Ripeto, tutte domande legittime. Adesso è il punto, è il momento però del punto del vice direttore del Sole, sentiamo. Il punto di Alberto Orioli. È incredibile che l'Italia, il paese dove raddoppiano i viaggiatori in pochi anni, non riesca a gestire compagnie aeree con efficienza. Di Alitalia e dei suoi guasti si è detto molto, basti ricordare che perde 900.000 euro al giorno e che nel corso degli anni è costata 9,2 miliardi di denaro pubblico, ultimo l'ennesimo prestito ponte di 400 milioni. Su Alitalia poi pende l'inchiesta giudiziaria sui bilanci dal 2014 al 2017. L'ultima a saltare è Air Italy, nata dalla joint venture tra l'Aga Khan e la sua Alisarda Meridiana con la Qatar Airways, che partecipa al 49%. Come in altri casi, pesa un errore strategico: pensare di abbandonare la Sardegna e lanciarsi nelle rotte intercontinentali, USA e Canada, scontando l'ostilità delle compagnie d'oltreoceano, ma anche India e Thailandia, ben presto abbandonate. Il caso poi dei B737 messi a terra da Boeing ha penalizzato ulteriormente Air Italy, che ha dovuto noleggiare nuovi aerei. Ma anche la struttura azionaria si è rivelata un problema. Servono almeno altri 200 milioni, ma il Qatar non può salire nella sua quota perché altrimenti la compagnia perderebbe la licenza di vettore europeo. Nel 2019 sono saltate 30 compagnie nel mondo, ma non credo che basti a consolarci. Alle 13.41 è con noi l'assessore all'urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, benvenuto. Grazie, buongiorno. Per parlare di questa notizia che, come avete sentito già dai titoli, riguarda appunto la città di Milano. Lei ieri ha scritto una lettera ai proprietari degli immobili abbandonati e degradati che ci sono a Milano, dicendogli e ricordandogli una cosa che è già prevista dal piano di gestione del territorio di Milano: avete 18 mesi di tempo per abbattere l'immobile abbandonato e salvaguardare i diritti edificatori nel caso in cui si tratti appunto anche di immobili che sono in costruzione, oppure procedere al recupero, altrimenti perderete tutti i diritti. Maran, uno scambio, no, tra, come dire, mantenere i diritti da parte delle proprietà su queste aree, su questi immobili, però fare qualcosa, cioè o le recuperate o li abbattete, non si può tollerare una via di mezzo, no? Come mai esatto. Siete arrivati a questa decisione? Ma intanto è una delle nuove norme del piano del governo del territorio, diciamo questo è possibile a Milano, non so altrove in Italia se può avere la stessa forza, perché siamo in una situazione di mercato espansivo, quindi alcuni luoghi vengono lasciati abbandonati non perché non c'è mercato, ma perché le banche, i fondi, le assicurazioni che le hanno a bilancio spesso hanno indicato una cifra come valore che è nettamente superiore al reale, e quindi conviene lasciarlo lì così com'è piuttosto che affrontare un tema di svalutazione. Questo cos'è? Una specie di, non so come definirlo, un artificio, un trucco, un sistema? Diciamo, è un elemento, se lo guardiamo dal punto di vista della fiscalità, della contabilità, è un elemento diciamo non nuovo nelle aziende e che ha un suo regime di comprensibilità. Sì. Però io, siccome non mi occupo di gestire quei fondi e quelle assicurazioni, ma la città di Milano, dico che quello è un problema per tutta la comunità, sia perché sono dei luoghi che poi causano dei problemi ai vicini, sia perché abbiamo una situazione di necessità abitative e quindi sono anche luoghi sottratti alla fruizione di case per i milanesi, quindi poi comportano incremento di costi delle case esistenti, eccetera, eccetera, e quindi è necessario intervenire. Abbiamo dovuto studiare molto gli aspetti legali, infatti non c'è un azzeramento dei diritti edificatori, ma il riconoscimento dell'indice base, che spesso è molto più basso rispetto al volume di cui oggi, ai diritti di cui oggi dispongono. Però parte anche da un principio, che la proprietà privata è un diritto costituzionalmente garantita, ma rappresenta anche una responsabilità nei confronti degli altri cittadini. Senta, avete censito 180 immobili o proprietari di immobili, non ho capito bene. Immobili. Di che tipo di proprietà si tratta? Di che tipo di immobili si tratta? Per capirsi. Allora, la larga parte sono immobili di grandi dimensioni, di natura o ex industriale o ex direzionale abbandonato, perché in zone magari poco servite dal trasporto pubblico. Questi sono i due asset principali. Poi ci sono anche delle cose più piccole, diciamo ex artigianali, eccetera. Sì. Però il grosso sono queste due. E che tipo di risposta avete avuto quando avete fatto partire fin dall'inizio questa diciamo missiva, avete fatto arrivare alle proprietà dicendo: guardate che avete questo tempo per mettervi in regola, altrimenti rischiate di perdere i diritti? Ma allora, dunque, diciamo, la norma è in vigore da settimana scorsa e quindi il timer è partito con le lettere che le abbiamo inviato questa settimana. Però è un fatto che è noto a tutti i proprietari da un anno e mezzo, da quando è avviato il percorso del piano. Alcune grandi proprietà si sono già mosse e hanno delle iniziative per cercare di recuperare, cedere questo tipo di patrimonio. Fortunatamente diversi di questi immobili sono già stati spuntati dall'elenco, perché sono partite o procedure di abbattimento o, cosa ovviamente ancora più gradita, dei progetti di recupero. Fortunatamente la città ha un suo dinamismo, quindi a me sembra anche che, devo dire, una cosa che mi fa molto piacere, diversi operatori ci hanno segnalato che la lettera e l'impegno consente anche a loro, rispetto ai CDA, ai revisori dei conti, di procedere a delle iniziative che erano bloccate altrimenti, proprio per questo tema della valutazione. Altrimenti sarebbe stato più difficile. Senta, esatto. Maran, una cosa però, perché poi il rischio che si creino, diciamo, strutture a metà o inutilizzate e che poi abbandonate è sempre dietro l'angolo, no? Parlo, certo, per esempio, Adesso Milano ospiterà i giochi invernali nel 2026. Per esempio, per lo scalo ferroviario di Porta Romana, per i non milanesi, insomma, si tratta di un'area vasta su cui da tempo si concentra le attenzioni anche da parte degli investitori, ma anche tutta una serie di progetti del comune su cui sorvolo. Però dovrebbe sorgere, no, il villaggio olimpico per i giochi invernali. Ma questa struttura, per esempio, ha un futuro? Cioè, come verrà utilizzata? Cosa avete pensato? Per evitare che di ricadere poi nella solita... Infatti, tanto è uno degli elementi cardine del dossier olimpico. Tra l'altro questa struttura sfrutta già, il scalo romano non serve variante né nulla per ospitare le Olimpiadi, sì, perché le regole erano già chiare. Dentro lo scalo c'è una quota di edilizia convenzionata che oggi, nel 2026, verrà utilizzata per il villaggio olimpico, ma perché verrà già progettata per diventare residenze per gli studenti universitari l'anno dopo, e d'altronde siamo a pochi passi dalla Bocconi e Milano ha oggi più di 220.000 studenti universitari, quindi c'è una fame di alloggi per studenti altissima, e quindi questo è già identificato come destino e come obiettivo sia dalla progettazione iniziale. Va bene, grazie per ora a Pier Francesco Maran, assessore urbanistica del Comune di Milano, però naturalmente, perché per esempio questa notizia di questa intimazione, non so se si può dire così, ai proprietari degli immobili abbandonati di provvedere a batterli loro stessi o a recuperarli per non perdere i diritti, è una notizia che secondo me merita di essere monitorata più avanti. Traffico? Sì, torniamo tra un attimo. Vorresti sviluppare la tua azienda? Ottenere contributi a fondo perduto? Ma gli impegni quotidiani ti inghiottono? Ci vuole uno specialista. Gruppo Finservice te ne offre 300 che troveranno tutti i contributi disponibili per i tuoi progetti. Chiama subito Gruppo Finservice, da 20 anni. Leader della finanza agevolata. Gruppo Finservice. Zero promesse, più contributi. GruppoFinService.com. Effetto giorno. Eccoci qua alle 13.49 minuti, di nuovo in diretta, di nuovo buongiorno Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, tra poco più di 15 minuti torna l'appuntamento con lo sport di giornata su Radio 24. Ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Allora, oggi cosa ci stai preparando? Stasera si gioca Coppa Italia? Stasera si gioca, e si è giocato ieri sera con il Napoli, che ha fatto il colpaccio a San Siro contro un Inter ben diversa da quella del campionato, da quella del derby, eccetera, pur con gli stessi interpreti, però una partita sgonfia quella dell'Inter. Il Napoli vince contro ogni pronostico. Mi dicono che a Napoli nessuno creda sul passaggio del turno, però non so se è pessimismo o realismo vista la stagione del Napoli. E questa per il sera, Napoli sarebbe un grande obiettivo. Rimane l'unico vero obiettivo, realistico obiettivo stagionale, dato che siamo alle semifinali. E stasera c'è sempre San Siro, a meno di 24 ore di distanza, stesso posto, stessa ora, 20.45, Milan-Juventus. Ibra contro Cristiano Ronaldo, o se preferite Sarri contro Pioli, due che hanno la panchina non esattamente avvitata per terra con i bulloni, insomma, due che sono un po' in difficoltà. Parleremo anche di tennis, tra l'altro notizia di oggi, Sinner torna a far parlare di lui perché passa il turno a Rotterdam e va ai quarti di finale Master 500, quindi l'italiano che va forte. Iniziano le Final 8 di Coppa Italia di basket, in questo caso a Pesaro, si gioca tra stasera ore 18 e domenica ore 20 la finale, quindi tutto condensato in pochissimi giorni. Bene. E parliamo di tutte queste cose qui, insomma, con gli ascoltatori. Grazie Carlo, insomma, tanto sport anche da vedere nelle prossime ore. Grazie Carlo Genta, appuntamento con tutti i convocati dopo il GR delle 14. E invece saluto Riccardo Barlam da New York. Ciao Riccardo, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Corrispondente del Sole 24 Ore, e insomma questo è l'orario nel quale normalmente scorriamo così le pagine dei giornali internazionali insieme a Giulia Crivelli, anche oggi assente giustificata. Allora noi vogliamo fare una piccola pagina, sempre naturalmente sul mondo, e in questo caso sulle primarie americane. Riccardo, sentiamo insieme l'analisi che ha fatto il nostro Daniele Biacchesi sulla questa seconda tornata delle primarie democratiche in New Hampshire, la vittoria di Sanders. Poi commentiamo. Gli stati di Iowa e New Hampshire non sono l'America, ma rappresentano certamente una tendenza politica, almeno all'interno dei democratici. Il vecchio Bernie Sanders, l'outsider per eccellenza, ha sbaragliato tutti i suoi concorrenti che corrono per le primarie Dem. Sanders parla con le parole semplici, chiare, punta sui programmi più che sulla demagogia e la propaganda. College for all, Medicare for all, Jobs for all, Justice for all. Pochi punti essenzialmente rivolti a larghe fasce del popolo americano che vive intorno, se non sotto, ai limiti della mera sussistenza, e scalda il cuore delle minoranze e dei più giovani che forniscono la base più interessante del suo bacino elettorale e del suo staff. Rilancia il welfare, chiede maggiore sicurezza sociale, si oppone agli attacchi di Trump contro l'Iran, si scaglia duramente contro l'establishment del partito, sostiene il movimento Green che riempie le piazze di tutto il mondo. In Europa Sanders sarebbe tutt'al più un socialdemocratico aderente al PSE, invece negli Stati Uniti è definito un radical di sinistra, una mosca bianca nel sistema collaudato della burocrazia del Partito Democratico. E qui sta la novità: le sue inaspettate vittorie determinano uno spostamento a sinistra dei Dem, ma non ancora del paese, che sembra credere a Trump e ai repubblicani. La sfida di Sanders è dunque ancora tutta aperta. Eccoci qua, Riccardo Barlam. Tutto questo, intanto sta arrivando anche Bloomberg, sembra la notizia delle ultime ore. Cosa ci resta di queste due prime tornate di primarie? Beh, ci restano, questa cosa di Sanders era abbastanza scontata, perché Sanders è il candidato, diciamo, che ha più seguito popolare, ha raccolto tantissimi soldi con una campagna da un dollaro a tre dollari, tantissime persone, più di 100 milioni di dollari. E il vero punto è che il Partito Democratico è diviso perché nella New Hampshire, ma anche prima, è emerso questo giovane sindaco ex militare, gay, sposato, che è un po' la faccia nuova, questo Pete Buttigieg, 38 anni, occhi blu, che parla chiaro, parla semplice, e a sorpresa ha conquistato il posto che era di Joe Biden, che era il vicepresidente di Obama per due mandati, che era quello favorito dai moderati, il candidato centrista. Oltre a lui, nel New Hampshire hanno votato, dove c'è una maggioranza di bianchi, 90% popolazione bianca, è questo stato che è sopra Boston, hanno votato questa senatrice del Minnesota, anche lei, che si chiama Amy Klobuchar, che anche lei è una delle espressioni del centro del partito. Mettendo insieme i due si arriva al 40%, oltre al 40% dei voti dei democratici. Quindi tra Sanders la lotta, e tra Sanders la parte più radicale del partito, e Elizabeth Warren, che è l'altra candidata che è vicino alle sue posizioni, che invece ha avuto una batosta in questi giorni, e appunto questa parte, diciamo, che non vuole mollare la presa, e che appunto non è ancora detto che vada a finire a favore di Sanders, perché molti dicono che perde con Trump, anche se lo stesso Trump ha detto che sarebbe il candidato migliore per lui, perché sa che è il candidato al suo opposto, il radicale, mentre lui è il radicale al centro, diciamo, sì, certo, in estrema destra, lui è in estrema sinistra. Quindi è tutto ancora da giocare, con Bloomberg che deve entrare in campo nel primo super martedì, il 3 marzo, quando si vota in 15 stati americani, tra cui California e Texas, che sono gli stati, certo, che danno più delegati. E quindi tutto da vedere, non è detto che il vecchio Sanders, che chiamano l'abbia qui nonno rivoluzione, spuntata, perché tutti i giovani, certo, sono con lui, ce la faccia, ecco, insomma è tutto da giocare ancora. Grazie mille a Riccardo Barlam da New York, è tutto per la puntata di oggi, un ringraziamento a Jacopo De Franchi in redazione, Valeria Bernardi in regia, noi ci risentiamo tra poco nell'aggiornamento delle 14, buona giornata da Alessio Maurizio, ciao.